Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Seconda parte dell'intervista a Roberto Saviano in occasione dell'uscita del libro 000 pubblicato da Feltrinelli. Un libro che, partendo dalla storia di singole persone, parla del traffico internazionale di cocaina in modo avvincente. Nella prima parte dell'intervista, andata in onda la settimana scorsa e disponibile su www.radio24.it, Saviano spiegava come funziona questo traffico dal Sud America agli Stati Uniti e all'Europa. E ci aveva raccontato che l'intero narcotraffico è la prima industria al mondo, superiore a quella del petrolio. Questa seconda parte dell'intervista inizia con una domanda a questo punto fondamentale, cioè se niente può contro il narcotraffico, l'unico modo per scardinare il meccanismo è la legalizzazione della droga? Ecco che cosa ci ha risposto Roberto Saviano. Sì, nel senso che mi rendo conto che il costo sociale di una liberalizzazione, di una legalizzazione sarebbero giganteschi, quindi io capisco il problema morale. Sul piano non morale, se è possibile distinguerlo, non c'è altro modo per sottrarre questo gigantesco mercato, cioè non c'è altro, non c'è, il contrasto non potrà mai eliminare il problema, mai. La liberalizzazione viene vista, almeno sul piano teorico, da me come la possibilità immediata di togliergli l'oro, il petrolio, perché qualunque altro ambito per loro sarebbe più lento per estrarre denaro, quindi dopo un po' rischierebbero di finire senza questi approvvigionamenti, ma mi rendo conto che sul piano morale è complicato. Narcotrafficanti che d'improvviso rischierebbero di essere imprenditori legali, insomma, è difficile immaginarseli. Però un tempo, per esempio, in Italia avevamo il traffico di sigarette, no? Soprattutto nel sud Italia. Smantellato quello, le organizzazioni criminali si sono ovviamente gettate su altro. Non accadrebbe la stessa cosa nel caso della cocaina, seppur tu dicevi magari con meccanismi più lenti per avere soldi? Sì, lo farebbero, ma credo che il problema della droga è talmente vasto, cioè, voglio dire, proprio riguardo l'aspetto del contrabbando, loro hanno mollato le sigarette proprio perché c'era la coca. E non conveniva beccarsi 6 anni per delle casse di sigarette quando era possibile beccarsene sì 12, ma diventare miliardari con la cocaina o con l'eroina. Napoli, per esempio, in questo senso ha avuto interi quartieri che hanno staccato con il contrabbando di sigarette e sono andati totalmente alla cocaina. Tant'è vero che diversi osservatori, alcuni insomma molto autorevoli anche, dichiararono che la battaglia al contrabbando era stata un'idiozia, perché il contrabbando ti permetteva una vita tutto sommato non strutturata militarmente, invece la coca ha permesso, ha costretto le famiglie a diventare affiliati, a strutturarsi e ad aumentare appunto la battaglia militare, mentre in passato con le sigarette ci si sparava meno. E si tratta di scegliere tra due mali, mi rendo conto che è un discorso che uno Stato non può fare. Però io qui mi interrogo e dico, se ci fosse la legalizzazione scomparirebbe il mercato clandestino del narcotraffico, ci sarebbe sicuramente l'estinzione del petrolio per le organizzazioni criminali, ma me la pongo piuttosto come domanda. In ogni caso, secondo me, bisogna iniziare a rifletterci e non ignorare il problema come si sta facendo, anche se si è proibizionisti, bisogna iniziare a chiedersi come si farà a contrastare il fenomeno. Quello che racconti in questo libro sono tutte cose vere, insomma cose provate, cose magari in parte già note, ma di cui tu hai tirato le fila. Sappiamo che Roberto Saviano è sotto scorta, la camorra gli ha fatto una sorta di fatwa, definiamola così. A questo punto il narcotraffico ti ha minacciato in qualche modo o così? Non rappresenta questo libro un pericolo per loro come lo è stato Gomorra? No, non credo, nel senso che ho raccontato storie di ogni parte del mondo, per ora non ho avuto segnali da parte loro, se non minacce giudiziarie, intendo. E tutto nasce da un fatto secondo me ben preciso, e cioè che loro non hanno mai paura delle parole che io scrivo, ma dei lettori che le leggono. Quindi il problema non è mai dell'ho svelato una cosa, perché non l'ho svelata, è tutta roba presa dagli atti giudiziari, dalle agenzie, così, ma l'ho raccontato in modo tale da farla arrivare a molte persone. Ecco, questa è la cosa che loro non vogliono, arrivare a molte persone. È proprio, se ci fosse un decalogo che indicasse la cosa che più odia un affiliato è arrivare a molte persone. L'ha spiegato bene un pentito che si chiama Maurizio Prestieri, un boss importantissimo del clan di Paolo Di Laura a Secondigliano, boss del quartiere Rione Monterosa, Ebbene, Maurizio Bestieri mi disse questa frase, mi disse: ma il tuo problema è che ci hai reso VIP, mentre noi vogliamo essere VIPL, cioè Very Important Person Local. Cioè, localmente ci devono conoscere tutti, devono lasciarci il posto macchina quando vedono che noi stiamo cercando un posto macchina, devono permetterci, ci lasciano il campo se quel campo ci serve per costruire. Ma quando vado a Milano nessuno deve sapere chi sono, devono immaginarmi, vedermi come un manager, come l'altro aspetto. Se tu invece ci mostri tutto il DNA dei nostri affari, lì è il problema. Ma se lo dimostri, cioè, nelle tue pagine, nei tuoi articoli, chi se ne frega, resta lì. Se la gente inizia a crederti, per noi è un problema. E quindi anche per questo libro il problema sarà piuttosto questo che quello che ho scritto. Nell'ultima parte di 000 tu apri un po', insomma, anche la tua anima ai lettori, fai notare che sei anche un po' stanco della vita che stai facendo, così blindata, e forse c'è anche un velo di pentimento, dici, ah, chi me l'ha fatto fare? Ora, immagino che tu avrai riflettuto molto prima di pubblicare queste pagine, non sono così, delle dichiarazioni fatte in un'intervista casuale. E questo quindi è il messaggio che vuoi mandare, sei stanco? Hai sbagliato a scrivere Gomorra, ti stai pentendo. Allora, io assolutamente sono pentito. Sono pentito che ho rovinato la mia esistenza. Non ne riesco a uscire, non mi piaccio come sono diventato. Questo non toglie nulla però alla necessità di quello che è stato fatto e scritto, all'impegno di migliaia di persone. Cioè, io ho fiducia nella possibilità di raccontare. Sul piano soggettivo, no. Nel senso, sul piano soggettivo mi dico, avrei potuto farlo in maniera diversa, con mille prudenze che avrebbero magari portato allo stesso risultato senza questa compromissione così totale della mia quotidianità. Cioè, quindi io non me la sento di rispondere alla domanda: lo rifaresti? Sì, il coraggio è importante. No, sento di dire no, io personalmente avrei cercato un'altra strada. Dopodiché, la mia fiducia, questo poi lo dico chiaramente nelle ultime pagine, è solo nel lettore. Cioè, io non ho tanta fiducia in me, in quello che posso fare io, in come posso uscire da questa storia. Mi sento abbastanza compromesso, se posso essere sincero. Mentre sento davvero ancora rispetto molto più di me, rispetto il lettore che decide di prendere del tempo e approfondire questi temi, imbattersi in mille storie, cambiare idea, sbagliare, non capire, fidarsi di qualcuno di cui non ci si doveva fidare, insomma, comunque che decide di dedicare del tempo a capire come funziona il mondo. E questa parte di mondo che io racconto è una parte importante. Quindi ecco il lettore che lo fa, la lettrice, il ragazzino come la persona matura. Ecco, quello in quel momento, il momento in cui conosce, sta realizzando quello che io avrei voluto realizzare, o comunque che realizzandolo mi ha messo nei guai. Ecco, quando è stato pubblicato Gomorra, ricordo, avevano stampato inizialmente 6.000 copie, più o meno quanto si stampano per un saggio che si pensa possa avere successo. Ne ha vendute 3 milioni, credo, solo in Italia, poi non diciamo poi nel resto del mondo. Ti è scoppiato un po' in mano il caso Gomorra? In mano, nel corpo, nella testa, è scoppiato e basta. Proprio è stata una cosa, da vederla da fuori, meravigliosa. Persone che si occupano di questi argomenti, così tanti, così in maniera popolare. Poi l'odio feroce di una parte del paese, la bile. Sai, metti in crisi, perché le persone si iniziano a chiedere perché lui. Allora, due sono gli atteggiamenti: o ti senti in colpa, dici perché io non sono riuscito a farlo? Ah, no, non sono io che non sono riuscito a farlo, è lui che è un furbo. Oppure tutta la rabbia di dire: ma io l'ho detto 20 anni prima, 10 anni prima, no? E da qualche parte in questo libro io lo dico, no? Che se ti occupi di queste cose c'è chi l'ha scritto prima che ti dirà: ma io l'ho scritto prima. Sai, come dire, c'è chi scrive di Seconda Guerra Mondiale. Ci sono dei saggi meravigliosi che io ho letto sulla Seconda Guerra Mondiale e altri invece, magari con le informazioni identiche o persino più dettagliate, ma che sono illeggibili. Ora, non questo per dire semplicemente che io poi ho iniziato ad avere con Gomorra nemici su tutti i fronti e mi è sicuramente scoppiato in mano anche totalmente, non ne ho avuto proprio coscienza, è stato tutto velocissimo, è stato tutto repentino e anzi poi tutto quello che ho fatto dopo è stato fatto anche per recuperare una dimensione artistica e intellettuale che non volevo perdere. Ma questa eccessiva popolarità rischia di schiacciare la tua credibilità. Ho cercato di tutelarla, col rigore in genere. Non è un caso che io cerco sempre di raccontare storie andate in giudicato, già affrontate dalla cronaca, e non fare lo scoop che poi magari dopo 6 mesi viene dimezzato dalle analisi giudiziarie. È il motivo per cui i più furbetti, insomma, mi dicono sempre: sì, ma cosa c'è di nuovo? C'è di nuovo, per quanto mi riguarda, il tentativo di una chiave di lettura e di un racconto, ma non vado a scovare storie non vagliate. Ecco, diciamo, avrei potuto fare cose nuove facendo il narcotrafficante infiltrato per 10 anni, ma quello non mi è stato possibile farlo. Quindi preferisco trovare storie provate, affrontate già dal dibattito della stampa, così che mi faccio io un'idea, ho delle prove, ho delle oggettività e le narro. E questo era Roberto Saviano, la seconda parte dell'intervista sul nuovo libro 000 pubblicato da Feltrinelli. Vi ricordo che trovate questa e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Ci trovate anche su Twitter come Ale Teddina. Un saluto da Alessandra Tedesco.